daika dunde ru dande ru da daika dunde ru da jabi zeda e berta esta cucuru vikidu nostra signora mia ita poistu nostra signora mia ita bo vistu cantu zamano cantu zamano. Nostra Signora, Nostra Signora, Nostra Signora, Nostra Signora, Nostra Signora, Nostra Signora, Nostra Signora, Nostra Signora, Nostra Signora, Nostra Signora, Nostra Signora, Nostra Signora, Nostra Signora, cantus amaro, cantus amaro, dai canela, dai canela, dai canela, dai canela, de verdade, de verdade. Curubiquido, Nostra Senhora minha, Itapo visto. Nostra Senhora minha, Itapo visto. Cantus a manu enen, cantus a manu enen, o cantus a manu enen, o dae. Cantus a manu enen.